Tra le righe, spunti, incontri e divagazioni con Adelaide Spallino. Caldo, eh? E non è che passato Scipione ci si possa rilassare più di tanto. Caronte è alle porte e ci traghetterà fino alle sponde del mese di luglio come anime in pena, sì, ma afflitte più dal solleone che dai peccati. Il tutto al ritmo delle hit dell'estate. Non uscire nelle ore più calde del giorno, bere molto, mangiare molta frutta e verdura. Per fortuna, adesso a casa ci si può difendere anche con il climatizzatore, aggeggio infernale, a proposito di Caronte, di sempre più ampia diffusione. Perché infernale? Perché se è usato male, quasi tutti lo usano male, rischia di mandarci in giro con il collo piegato da un lato, causa dolore alla cervicale. Chi non si è mai imbattuto in uno di quegli sbalzi repentini di temperatura, passando dal torrido esterno di una via al glaciale interno di un negozio o di una casa? Sembra che vi sia una oggettiva incapacità a saper valutare quale sia la temperatura adatta per far sì che non si formino le stalattiti sul soffitto e per scongiurare un'improvvisa migrazione di renne dalle nostre parti nel mese di agosto. A proposito di renne, di Natale e quant'altro, ecco presto giustificata la musica momentaneamente anacronistica che abbiamo in sottofondo. Non siamo impazziti né ci dedichiamo al cinismo. Tutta colpa di un romanzo che già con il titolo si allinea, se non con la stagione, almeno con il clima che avete in casa. In città a zero gradi di Daniel Glattauer, pubblicato in Italia da Feltrinelli alla fine dello scorso anno. Glattauer è autore viennese che con il primo libro, anch'esso dal titolo di ispirazione meteorologica, Le ho mai raccontato del vento del nord, ha spopolato in ogni dove. Il protagonista di questo romanzo è Max, anzi in realtà sarebbero due, Max e il suo cane Kurt. Sarebbero perché Kurt, un bracco tedesco a pelo ispido, non è certo il tipo che possa togliere la scena a qualcuno, né che voglia ambire a chissà quali primi piani, appunto. Troppa fatica uscire da sotto la sedia di casa. Max non ama il Natale e vuol partire per le Maldive per le feste. Kurt ama la sedia e resta a casa. E allora? Allora ci vuole una dog sitter improvvisata, Katrin, che si offre di tenere Kurt nei giorni di assenza del padrone, pur di sottrarsi alle tanto temute riunioni familiari, organizzate dai suoi, ovviamente in occasione del Natale. Tutto qua? Certo che no, ma mica posso raccontare tutto il libro. Sta di fatto che In città a zero gradi offre una lettura godibile con lo stile inconfondibilmente ironico di Glattauer. Certo, chi ha amato Le ho mai raccontato del vento del nord potrebbe trovarlo un po' meno tonico come romanzo, ma resta comunque una piacevole parentesi narrativa. Del resto, i lettori sanno regolare bene i propri gusti, un po' meglio di sicuro di come molti sappiano regolare il climatizzatore. Come non detto, ovviamente. Alla prossima! Tra le righe e Adelaide Spallino vi danno appuntamento alla prossima puntata.